uccidi e a comprendere le tue mezze verità, due pianeti lontanissimi ma risplendenti di una luce vivida, anime che si conoscono come due gemelli uniti per l'eternità, pulsazioni rapidissime, sono due cuori che sognano un grande amore fatto per noi, un segno del destino, una rarità. Amami sempre di più e non lasciarmi andare via. È il nostro sogno, vedrai si realizzerà. Giorno dopo giorno si giunto giù, e attimo dopo attimo, spero nel tuo intimo, spero nel tuo intimo, abbracciami e non guardare indietro mai, siamo fatti l'uno per l'altra, lo sai, un grande amore fatto per noi è un segno del destino, una rarità. Amami sempre di più e non lasciarmi andare via. È il nostro sogno, vedrai si realizzerà. Un grande amore fatto per noi è un segno del destino. Amami sempre di più e non lasciarmi andare mai via. È il nostro sogno, vedrai si realizzerà. Si realizzerà. Vedrai si realizzerà.